Ad alta voce, Valentina Carnelutti legge Jules Jim di Henri-Pierre Rocher, edizione Gallimard, 1953, traduzione di Ena Marchi. La legge del taglione, Venezia. Jim restava per lunghi periodi a Parigi. La cosa era accettata da Kate. Pubblicava delle inchieste sul teatro che lo riportavano in Europa centrale. Ogni tanto passava con Kate e Jules un paio di settimane che bastavano a incantarlo per dei mesi. Un anno trascorse, felice, quasi senza storia. Kate e Jim, memori dei colpi d'ascia che già si erano assestati, evitavano i loro eccessi. Si abbandonavano con più dolcezza alla grande forza che li muoveva. Erano puri a modo loro e sottomessi. Diffidavano dell'intelletto. Stavano il più possibile assieme a Jules, che aveva il suo lavoro di benedettino. Si credevano al riparo da se stessi, pure, come un colpo di gong, arrivò la ricaduta. Un giorno andò a trovarli da Parigi il figlio di una donna che in passato aveva avuto un ruolo importante nella vita di Jim e che era al corrente del loro amore. Per discrezione nei confronti di Jules, che era l'ospite ed era risposato con Kate, Jim non mostrò all'amico la sua intimità con Kate. Lei ne trasse immediatamente le sue conclusioni. Se Jim vuole tenere nascosto il nostro amore al figlio di quella donna, è perché lei è ancora la sua amante a Parigi, malgrado tutto quello che lui racconta. Pallida, si alzò, guardò Jim, ebbe il suo sorriso irreparabile e uscì. «Povera Kate», disse Jules. Jim aveva sentito tornare l'inferno, non ne voleva più sapere. Si stese sul loro letto con le braccia incrociate ad occhi chiusi, pensò al blocco che formavano solo poco tempo prima. Passò un'ora. Non vide Kate che rientrava, lo guardava, non sentì il suo passo sul tappeto. «Basta, Jim», disse Kate piano. «Ho creduto che tu mi tradissi. Ti ho tradito. È finita». «È finita? Che cosa?» disse Jim. «La nostra sofferenza, il tuo dolore che mi guarisce». «Che hai fatto?» disse Jim. Lei raccontò. Un uomo che lui non conosceva, un pittore che le aveva fatto la corte in passato, uno che aveva sotto mano. Le aveva fatto quel piacere in modo limitato e senza conseguenze possibili, ma sufficiente a fare da contrappeso e a ristabilire l'equilibrio. «L'equilibrio con che cosa?» disse Jim, visto che non c'era niente. «L'equilibrio con quel che credevo io», disse Kate, «e ora non lo credo più, e senza questo l'avrei creduto sempre. È il mio di equilibrio», gemette Jim. «Jim, le tue lacrime!» E Kate, radiosa, beve agli occhi di Jim, che seppe così di averli bagnati. Vide una bestia irresponsabile che assaporava il suo nutrimento naturale. Lei si muoveva con voluttà nel rosso del suo cuore. Lui era senza speranza, sfinito. Kate lo tenne tutta la notte come un bambino malato. Le si addormentò in braccio. Si ritrovarono soltanto l'indomani. Jim serbava però un duro ricordo di quella nuova ferita. Il mese seguente tornò a Parigi. Lui e Kate si scrivevano come si parlavano. Ci fu un silenzio da parte di Kate, poi una lettera di Jules come imbarazzata e finalmente una lettera di Kate un po' bizzarra che parlava di un balcone su cui ci si poteva arrampicare, di una terrazza fiorita, il tutto a proposito di qualcosa che veniva taciuto. Ben considerata, la lettera parve a Jim altrettanto significativa della famosa pagina del diario di Kate in cui si accennava alle mani di Harold. Lei diceva senza dire come sapeva fare così bene, pronta poi a dichiarare «Io ti ho raccontato tutto, ma tu non hai capito». Jim decise di agire immediatamente, alla Kate. Andò a trovare, come aveva fatto Kate, un artista con la quale aveva avuto un flirt 10 anni prima, una donna emancipata, carina. Non ci fu tra loro niente di sentimentale, ma l'appagamento di una fantasia e di una curiosità. Jim bevve la sua vendetta a piccoli sorsi. Com'era facile lasciarsi andare. Passò con l'altra tutta la notte. Non le nascose che era innamorato di qualcuno e lei neppure. Sì, quel che diceva Kate era vero. Non era importante che si facesse molto o poco, purché lo si facesse contro il proprio amore. Provò a immaginarsi le ore che Kate aveva trascorso con Albert, con Harold, col suo ultimo colpo di testa. Forse Jim era infedele solo per poter capire meglio. Pure tutto ciò assomigliava al loro amore ed era una droga brutale da non prendere più. Insomma, Jim non valeva più di Kate e questo gliela faceva sentire più vicina. Scrisse immediatamente a Kate di quel che aveva fatto e aspettò impazientemente la risposta. Questa arrivò a stretto giro di posta. «Che follia!» diceva. «Ne riparleremo. Smettila subito, quel che c'è stato sulla terrazza è solo il frutto della tua immaginazione. Vieni». Un biglietto di Jules a parte confermava. «No, non c'è stato niente». Rileggendo le ultime lettere di Kate, Jim non le trovò più così inquietanti. Corse da lei, era lui il colpevole questa volta. La trovò dispiaciuta per quel che lui aveva fatto, ma piena di comprensione. Gli dimostrò anche, indirettamente, una certa stima professionale. Probabilmente non si sarebbe più vendicata in quel modo, tranne in caso di assoluta certezza. Ma l'immaginazione non è forse una certezza? Oppure non lo avrebbe più messo al corrente? Ancora una volta ripartirono da zero. E di nuovo si librarono altissimi, come grandi uccelli rapaci. Erano sempre timidi quando si ritrovavano. Ciascuno temeva forse di non avere da offrire all'altro che una ripetizione. Pure come non ci sono mai due albe brumose che si assomiglino, così non era mai accaduto che si ritrovassero uguali. Passò un altro anno con delle visite di Jim. Riuscirono finalmente a realizzare un vecchio progetto. Andarono a passare 15 giorni sul lago di Lugano, in una graziosa pensioncina che Jim aveva notato 20 anni prima in occasione di un viaggio con sua madre. Dopo un inverno rigido, trovarono lì la primavera. Dopo le privazioni, l'abbondanza. Quella luce e il clima italiano furono una rivelazione per Kate. Che allegria i grandi vassoi carichi di cioccolata, burro, marmellata che la cameriera svizzera portava loro a letto, dopo aver tirato le grandi tende che lasciavano entrare il sole. Jim guardava Kate tuffarsi dalla barca e nuotare come un'ondina. Si divertivano a rompere a colpi di pietre le bottiglie vuote che galleggiavano sull'acqua. Non avevano nient'altro da fare che se stessi. Una notte Kate si nascose dietro un cespuglio e saltò all'improvviso con tutto il suo peso al collo di Jim, che fu lì lì per svenire. Si resero conto che il cuore di Jim non era a tutta prova. Fecero la lunga ascensione di un monte vicino. In discesa, Jim provò un dolore acuto a un ginocchio che anni prima si era ferito. Kate, felice, gli offrì la sua spalla perché vi si appoggiasse. Andarono a remi fino alla sponda italiana. Al ritorno un temporale superò il crinale delle montagne e subito fu sopra di loro. La pioggia li accecava, onde corte scuotevano la barca e la riempivano d'acqua. Il fulmine crepitava. Remavano a 4 remi cercando di raggiungere la riva, lontana ancora un quarto d'ora. A un certo punto i loro remi si urtarono. «Siediti a poppa, Jim», disse Kate. «Pensa a togliere l'acqua e lasciami fare». Jim remava bene, ma Kate ancora meglio di lui. Obbedì. Vedeva adesso una Kate con la camicetta di seta bianca inzuppata e incollata alla pelle che spingeva sui remi come un marinaio, concentrata nello sforzo. Gli occhi di Kate sfavillavano. Avrebbe voluto che la barca si capovolgesse perché la situazione si facesse grave e lei potesse salvare Jim o per annegare insieme a lui. Riuscì a portare in salvo tutti e due. Andarono al casinò, giocarono alla roulette, ciascuno per conto proprio, con la stessa somma. Si divertirono a immaginare che ogni loro franco svizzero ne valesse 100. Jim guardava Kate giocare, seria, immobile, ispirata a un tratto da un certo numero. Aspirava il gioco come il fumo delle sue sigarette. Vinse, vinse ancora, giocò più forte e perse tutto. «Ne valeva la pena», disse. «E che importa se si vince o si perde? E tu, Jim, a che punto sei?» «Vinco qualcosa per il momento». «Andiamocelo subito a bere». Si sedettero in un caffè all'aperto, bevvero un liquore, contrariamente alle loro abitudini, fumarono vere sigarette inglesi. Davanti a loro la piazza grande della città, animata dal passaggio di carri tirati da buoi e da un mercato di contadini. Evocarono la prima discesa verso il sud che Jules aveva fatto da studente, che raccontava così bene, di quando era passato in bicicletta sotto la pioggia con lo zaino che gli formava una gobba sotto l'impermeabile davanti a una banda di giovani operaie che uscivano da una fabbrica. Si erano precipitate verso di lui, l'avevano fermato e attorniato per toccargli la gobba. «È una cosa che porta fortuna!» Una di loro gli era rimasta nella memoria e si era pentito di non essersi fermato per lei in quella città. Quanto doveva essere stato tenero e buffo in quel momento il loro Jules. Si ripromisero di fare un vero viaggio in Italia. Quest'idea li consolò delle 2 settimane ormai alla fine. Qualche mese dopo si ritrovarono a Venezia. Entrarono in una grande chiesa dove un coro di chierichetti vestiti di colori vivaci cantava a squarciagola le litanie dei santi. Ce n'era tutta una sfilza che Kate e Jim non avevano mai sentito nominare e ogni tanto il coro riprendeva e tutti i santi del paradiso, con una cadenza che ricordava a Jim la prima frase italiana che aveva sentito insieme a Jules quando erano sbarcati a Napoli in viaggio verso Atene sulla bocca di un bambinetto. «Ho già mangiato la farinata!» Quel canto paradisiaco segnò per loro l'inizio delle vacanze estive. Venezia fornì loro quell'inesauribile cornice per innamorati che, si sa, un giocattolo ricco della sua nobiltà di ieri e dei suoi succhi di oggi. Avevano un ottimo letto matrimoniale, con una grande zanzariera. Mangiavano con gusto agli angoli dei ponti certi polipetti all'aceto grandi come prugne. Il teatro popolare e la gioia incredibile del pubblico alle battute più scurrili li mandarono in visibilio. Andavano in giro sui canali, senza meta, a caccia di scoperte. In capo a una decina di giorni ebbero bisogno di vedere Venezia con un po' di distacco. Presero il vaporetto sulla riva degli Schiavoni ed esplorarono lentamente la laguna piatta. L'orizzontalità del paesaggio li esaltava. Videro Chioggia e i suoi bimbici sposi in braccio alle madri che nemmeno scacciavano le mosche che coprivano loro gli occhi. E gli occhi delle fanciulle e dei ragazzi in quel paese erano particolarmente belli. Presero alloggio nella locanda di un porticciolo di pescatori, a un'ora di cammino dal Lido che raggiungevano a piedi. La grande camera bianca, a due letti, era pulita. Vivevano di spaghetti e di pomodori come i pescatori. Al Lido fu data loro una tenda in mezzo a famiglie veneziane di molti figli. La sabbia scottava la pianta dei piedi. Facevano il bagno 3 volte al giorno. Kate cercava di migliorare lo stile dei tuffi di Jim. Frequentarono la spiaggia dove i bagnanti, uomini e donne, stesi sulla sabbia, si abbronzavano al sole e non avevano nient'altro da fare al mondo. Certi arrivavano ad avere un color cioccolata di grande effetto, soprattutto nelle bionde. Dei giovanottoni abbronzati si cimentavano in esercizi acrobatici. Che differenza con la nudità balneare del nord. Qui l'esibizionismo e il sex appeal erano più diretti, il modo di vestire più trasandato. Era un ambiente di bar e di viveur in cui Kate, anche lei bionda e abbronzata, avrebbe fatto furore se solo avesse voluto. D'altronde, senza volerlo, faceva furore. Le sue spalle di nuotatrice, le giunture delicate, i movimenti precisi, lo stile dei suoi tuffi, le sue lunghe nuotate al largo, tutto questo attirava l'attenzione. Solo una bruna possente, regina della spiaggia, avrebbe potuto batterla sulle brevi distanze. Si parlava di organizzare delle gare, ma Kate si teneva in disparte. Un po' alla volta, Jim si sentì considerato come un seccatore che sequestrava Kate, tesoro immeritato per lui che non era né nuotatore né viveur. Le sue doti di pugile e di atleta non apparivano in quella situazione. Era un principe consorte. Quegli uomini erano più belli, più allegri di lui e di Jules. Non meritavano dunque Kate più di loro due. Se si allontanava un momento, sorprendeva dei complotti per entrare in rapporto con lei. Un pomeriggio Kate entrò in acqua e dopo un po' fu chiaro che stava dirigendosi verso uno dei banchi di sabbia più lontani. Un gigante dai lucidi capelli neri si alzò, si buttò in mare e nuotò nella sua scia. Fu per Jim il negro del balletto di Scheherazade. Tutti gli sguardi si appuntarono su di loro. Kate non sapeva di essere seguita. Lui accorciava le distanze, finché divennero invisibili in lontananza anche per il binocolo da marina di Jim. Dopo un lungo momento li scorse minuscoli che uscivano insieme dall'acqua e si sedevano sul banco di sabbia. Temette il peggio. Gli parve che parlassero. L'uomo si alzò in piedi e sembrò dare delle dimostrazioni di stile. Si rituffò per primo. Appena arriva, tutti gli furono intorno facendogli domande. Aveva dei grandi occhi neri, la bocca rossa. Indicò Jim agli altri con un cenno della testa. Si rotolò nella sabbia per asciugarsi e se li portò tutti al bar. Nel binocolo Jim vedeva Kate avvicinarsi a bracciate regolari, con gli occhi un po' cerchiati. Andò ad accoglierla sulla riva, le porse l'accappatoio. Lei raccontò: «Ero a 3/4 del percorso quando ho avuto la sorpresa di sentire una voce alle mie spalle e di vedermelo arrivare a fianco. Scherzava, cercava di acchiapparmi nuotando per aiutarmi, diceva. Ho rifiutato tranquillamente. Mi ha abbracciata lo stesso. Quel po' di jiu-jitsu che conosco mi è servito e mi sono svincolata senza arrabbiarmi. Arrivando sul banco di sabbia avevo un po' paura. Non avrei potuto fare granché contro di lui e lui sembrava deciso. Però gli ci sarebbe voluto per riuscire o un terrore totale o la mia acquiescenza. Io l'ho trattato con una disinvoltura cameratesca distaccata e ho criticato il suo stile. E qui ha incominciato in piedi a mostrarmi delle posizioni di nuoto che mettevano in evidenza il suo turbamento. Ho finto di non accorgermi di niente, ho difeso la scuola di nuoto del mio paese. E poi l'ho scampata bella. Jim le disse quanto gli rincresceva di non essere capace di seguirla. Le chiese: «Non hai avuto curiosità di quel bel ragazzo in quella splendida cornice?» «Certo, la stessa che avresti avuto tu della bella nuotatrice bruna se ti si fosse offerta nelle stesse circostanze, ma non di più.» «Ma lei non avrebbe avuto nessuna ragione di offrirsi a me», disse Jim. «Che cosa ne sai a far suo, non tuo? Vedi, Jim, l'acqua è il mio elemento, tu ne hai un altro.» E vedendolo aggrottato: «Mi avrebbe tentata un tempo, forse, ma tutto questo è solo bella carne, non è quello che io cerco.» E aggiunse: «L'abbiamo vista abbastanza questa spiaggia dei nuotatori, andrò a fare il bagno da un'altra parte.» Eppure Kate avrebbe probabilmente vinto la gara di nuoto femminile da un'isola all'altra e ritorno che era stata appena indetta, e ci si sarebbe divertita. Jim la privava di un grande piacere. Andavano ancora qualche volta a passare una giornata a Venezia, non fosse altro per le lente traversate della laguna accompagnate dal tac-tac del vaporetto. Kate mangiò in piazza San Marco un gelato che le fece male. Fu presa in città da una violenta nausea. Dovette entrare in un caffè, poi in un albergo e anche in una casa privata per poter star male tranquillamente. Le girava la testa, aveva la fronte imperlata di sudore. A tratti Jim sosteneva tutto il suo peso che quel giorno trovava leggero. Perfino questo, star male, lei lo faceva a fondo. La portò fino al vaporetto e lì sul ponte lei si sentì di nuovo male e diceva fra le braccia di Jim: «Lo vedi quanto puoi aiutarmi e lo fai con tanto garbo, Jim. Condividi davvero la mia nausea.» Nella loro grande stanza, durante le ore in cui il caldo feroce costringe a star nudi, non avevano nient'altro da fare che parlare e amarsi. Forse parlarono troppo, forse si amarono troppo. Forse non erano mai capaci di resistere a una felicità di lunga durata. Forse la calura torrida cominciava a renderli anemici. Cresceva in loro un'irrequietezza che né lo splendore del paesaggio marino né le giornate belle che passavano a Venezia riuscivano a placare. Kate accennò una volta a Gilbert. Una sera andarono a stendersi sull'erba giù al molo, proprio accanto alle barche strette sul fondo delle quali i pescatori accendevano placidi dei piccoli fuochi e si cuocevano gli spaghetti. Il tramonto si spense, apparvero le stelle. «Jim, se tu volessi», disse Kate rompendo il silenzio, «andremo a ritrovare Jules e le bambine e tutti insieme ce ne andremo sul Mar Baltico. Io non sono a casa mia, qui ho bisogno del mio nord. Amo la mia Prussia e tu cominci ad amarla. Tu sai che amo la Francia senza riserve. In questi due paesi siamo di più a casa nostra.» «Ma certo», disse Jim. «Domani, se vuoi, Kate.» Risalirono verso il nord con la stessa allegria con cui erano scesi verso il sud. In treno Kate schizzò delle caricature di Jim con certe didascalie che lo fecero ridere. Lo conosceva bene il suo Jim. Al primo buffet in cui si fermarono nella patria di Kate, videro a che prezzo incredibile era arrivata ormai una tazza di tè. La svalutazione infuriava. Un anziano cameriere, improvvisamente incapace di fare le addizioni, si mise a piangere e a proferire minacce, sempre più alterato. Era pazzo, lo portarono via. Quella stessa svalutazione permise a Kate e a Jim di prendere un vagone letto per la prima volta insieme e di raggiungere più rapidamente Jules e le bambine. L'isola nel Baltico. Li trovarono nella grande casa. Le vacanze erano quasi finite, ma poiché la mamma era tornata, ne avrebbero prese delle altre. «Lo vedi che avevo ragione?» diceva Lisbeth. «È ritornata?» «Sì», diceva Martin, citando la madre. «Ma si ha ragione sempre per un momento solo.» Tutti tranne Jules, impegnato nel suo lavoro, partirono per un'isola del Baltico, dove presero alloggio in un villaggio di pescatori. La luce era proprio come l'aveva descritta Kate, e Jim capiva che lei ne avesse avuto nostalgia. I pescatori, ben diversi da quelli di Venezia, erano altrettanto simpatici. Avevano occhi di un azzurro crudo, violento. Kate ebbe bisogno di rinnovare un documento. Andò con Jim al municipio, dove fu fatta una nuova descrizione dei suoi connotati. «Viso ovale», detto all'impiegato esaminandola, «capelli biondi, occhi...» esitò un momento e dichiarò: «grigi». Erano in un paese dove i proverbiali occhi azzurri di Kate passavano in confronto ai loro per grigi. Lei ebbe la tentazione di protestare, ma vi rinunciò. Passarono delle giornate con Lisbeth e Martin, nudi fra le dune. Vivevano di pesce fresco e affumicato. Giocarono a tennis su un vecchio campo. Kate si batteva come un demonio. A Jim piaceva aver di fronte quel suo coraggio accanito. Alla fine vinceva lui, poi la portava in trionfo. A ping pong, però, lo batteva lei.